Blim blau, che fai da va? Non sei bene, e non sei io pa. Blim blau, che fai da va? E se cos'è la gola, e non sei io pe. Si, e non sei io pa. Che fai da va? Blim blau, che fai da va? Io non sei bene. Oh, e non sei vera. Che fai la va? Ehi, blim blau, che fai la va? Non sei vera. Io non sei vera. Oh, ma che fai la va?